Jane Eyre, capitolo primo. Impossibile uscire a passeggio quel giorno. Avevamo, è vero, camminato per un'ora nell'alberetta ormai spoglia durante la mattinata, ma all'ora di colazione? La signora Reed faceva colazione presto quando non aveva ospiti. Il vento freddo aveva ammassato una nuvolaglia così fosca, seguita da una pioggia tanto penetrante che non era più il caso di pensare a un po' di esercizio all'aperto quel pomeriggio. Ma io ne ero contenta. Non mi piacevano le lunghe passeggiate, specie nei pomeriggi d'inverno. Detestavo ritornare a casa nella luce grigia del crepuscolo con mani e piedi intirizziti e il cuore triste per i rimproveri di Bessie, la bambinaia, e umiliata dalla consapevolezza della mia inferiorità fisica rispetto a Eliza, John e Georgiana Reed. I nominati, Eliza, John e Georgiana Reed, si trovavano ora in salotto, riuniti intorno alla loro mamma. Ella se ne stava sdraiata su un divano accanto al caminetto e, circondata dai suoi diletti, che per il momento non bisticciavano né strillavano, appariva felice. Quanto a me, mi aveva dispensata dall'unirmi al gruppo, dicendo che le rincresceva di dovermi tenere a distanza, ma che sino a quando Bessie non le avesse detto e lei stessa non avesse avuto modo di convincersi che io mi sforzavo seriamente di diventare più socievole ed espansiva e di acquistare modi più amabili e spontanei, mi voleva più allegra, più franca, più infantile, insomma, era costretta ad escludermi da quei privilegi che si concedono soltanto ai bambini spensierati, felici e soddisfatti. Che cosa ha detto Bessie di me? Domandai. Jane, non mi piacciono i bambini curiosi. Inoltre, quando mai un bambino rivolge la parola in questo modo alle persone adulte, siediti e stai zitta, se non sai parlare in modo più educato. Adiacente al salotto vi era una piccola stanza da pranzo. Vi sgattaiolai. Là dentro si trovava anche una libreria e poco dopo ne toglievo un libro, non senza essermi assicurata che fosse illustrato. Mi arrampicai sul sedile, ricavato nel vano della finestra e salendovi sopra anche con i piedi, mi sedetti a gambe incrociate come un turco. Dietro le rosse tende di damasco che avevo accuratamente avvicinato, mi sentii protetta e isolata come in un doppio scrigno. Ampie pieghe di stoffa scarlatta mi impedivano la vista verso l'interno. Verso l'esterno i tersi riquadri di vetro della finestra mi proteggevano, ma non mi separavano dalla malinconica giornata novembrina. A intervalli, mentre voltavo le pagine del libro, osservavo l'aspetto di quel pomeriggio d'inverno. In lontananza esso offriva una pallida distesa di foschia e di nubi. Più vicino la scena era un prato inzuppato d'acqua con qualche arbusto scompigliato dal maltempo e una pioggia fitta che lunghe folate di vento spazzavano via rabbiosamente. Posai di nuovo gli occhi sul mio libro, La storia degli uccelli inglesi di Bewick. Non che il testo mi interessasse molto, ma nell'introduzione vi erano alcune pagine che, bambina com'ero, non riuscivo a saltare a piè pari come se non esistessero. Erano le pagine che parlavano dei ricoveri degli uccelli marini, dei promontori e scogli solitari che essi soli abitavano, della costa norvegese, disseminata di isole da Lindness o Neis, la sua estremità meridionale, fino a Capo Nord. Là dove il nordico oceano in grandi ondate ribolle intorno alle brulle isole malinconiche dell'estrema Thule e i flutti dell'Atlantico si avventano gonfi tra le ebbridi tempestose. Né potevo non soffermarmi sulla descrizione delle squallide rive della Lapponia, della Siberia, dello Spitsbergen, della Nuova Zemlya, della Groenlandia, dell'Islanda, con la sconfinata distesa della zona artica e quelle sperdute regioni lugubri e deserte, quell'immane serbatoio di gelo e di neve, dove solidi campi di ghiaccio, prodotto di centinaia e centinaia di inverni, vetrificati e stratificati fino a raggiungere altezze alpine, circondavano il polo e concentravano i moltiplicati rigori dell'estremo gelo. Di quei pallidi regni senza vita mi ero fatta un'idea tutta mia, incerta, al pari di tutte le nozioni capite soltanto a metà, che fluttuano oscure nei cervelli infantili, ma stranamente solenne e affascinante. Quelle parole di introduzione concernevano le illustrazioni delle pagine seguenti e davano un significato allo scoglio che si ergeva solitario su di un mare tumultuoso e schiumeggiante. Alla barca sfasciata, arenatasi su una costa desolata, alla gelida luna che riluceva spettrale attraverso dense filacce di nubi proprio su di un relitto in procinto di affondare. Non so dire quale atmosfera gravasse sul camposanto abbandonato, con la sua lapide incisa da un'iscrizione, il suo cancello, i suoi alberi, l'orizzonte basso che il muro sbrecciato sembrava pure recingere. e la falce crescente della luna che indicava l'ora della sera. I due vascelli, immobili su un torpido mare, mi sembravano fantasmi marini. Il maligno, che appariva alle spalle della banda di ladri, mi faceva voltar subito pagina. Era un oggetto di terrore, e così pure la nera forma cornuta che sedeva sola su una roccia, tenendo d'occhio una folla assembrata in distanza attorno a una forca. Ogni illustrazione narrava una storia, spesso misteriosa per la mia immatura comprensione e la mia imperfetta sensibilità, eppure sempre profondamente interessante. Interessante quanto le fiabe che talora, nelle sere d'inverno, Bessie ci raccontava quando le capitava di essere di buon umore e quando, dopo aver trascinato il tavolo da stiro nella nostra stanza dei giochi, permetteva a noi bambini di sedercisi sopra e poi, mentre il ferro lisciava le gale e le trine della signora Reed e stirava i nastri delle sue cuffie da notte, ella nutriva la nostra avida attenzione di racconti d'amore e d'avventure tolti da vecchie favole e ballate. Oppure, come scoprì anni dopo, dalle pagine di Pamela o di Harry Conte di Moreland. Così, con il bivouac sulle ginocchia, ero felice, felice perlomeno a modo mio. Temevo soltanto di essere disturbata e infatti lo fui presto. La porta della stanza da pranzo si aperse. «Ehi, madamigella!» gridò la voce di John Reed, ma subito dopo tacque. Evidentemente la stanza gli sembrava vuota. «Dove diavolo si sarà ficcata?» continuò poi. «Lizzy, Georgie!» chiamando le sorelle. «Qui John non c'è! Dite alla mamma che sarà scappata fuori sotto la pioggia, quella stupida!» Ho fatto bene a chiudere le tende, mi dissi, sperando ardentemente che il mio nascondiglio non venisse scoperto. John Reed da solo non ci sarebbe mai riuscito, non aveva né la vista acuta né la mente pronta. Ma Eliza, affacciandosi all'uscio, disse subito: «Vedrai che dietro la tenda, Jack!» Allora ne uscii immediatamente, perché tremavo all'idea di essere trascinata fuori dal nominato Jack. «Che cosa vuole?» chiesi con diffidenza. «Si dice che cosa vuole signor Reed», fu la risposta. «Voglio che tu venga qui!» E mettendosi a sedere su una poltrona mi intimò col gesto di avvicinarmi. John Reed era uno studente quattordicenne, maggiore di me di 4 anni, poiché io ne avevo solamente 10, grande e robusto per la sua età, con la carnagione scura e malsana, una faccia larga, dai lineamenti grossolani, membra pesanti e grosse estremità. Aveva l'abitudine di rimpinzarsi a tavola e questo lo rendeva bilioso, con le guance flaccide e gli occhi opachi. Avrebbe dovuto essere a scuola, ma sua madre lo aveva tenuto a casa 1 mese o 2 col pretesto della sua salute cagionevole. Il signor Miles, il direttore del collegio, asseriva che sarebbe stato benissimo se da casa non gli avessero mandato tanti dolci e pasticcini, ma il cuore della madre rifuggiva da sì materialistica opinione e assai più delicatamente preferiva attribuire la brutta cera di John al troppo studio e forse alla nostalgia della sua casa. John non era molto affezionato alla madre e alle sorelle e per me poi nutriva una vera antipatia. Mi tiranneggiava e mi puniva, non 2 o 3 volte alla settimana, né 1 o 2 volte al giorno, ma continuamente. Lo temevo con tutti i miei nervi ed ogni palmo di carne sulle mie ossa rabbrividiva al suo apparire. A volte il terrore che gli era capace di ispirare mi sbigottiva, perché non avevo a chi chiedere aiuto contro le sue minacce e i suoi castighi. La servitù si guardava bene dall'offendere il padroncino prendendo le mie difese, e la signora Reed era cieca e sorda su quell'argomento. Mai che lo vedesse picchiarmi o lo udisse svillaneggiarmi, anche quando gli capitava di farlo in presenza sua, sebbene ciò accadesse più di frequente quando lei non c'era. Avvezza ad ubbidire a John, mi avvicinai alla sua poltrona. Egli lasciò passare circa 3 minuti mostrandomi la lingua fin dove gli era possibile senza sentir male. Sapevo che mi avrebbe percossa e mentre aspettavo, tremante d'essere colpita, osservavo l'aspetto brutale e disgustoso di colui che si accingeva a farlo. Forse egli mi lesse in viso quel pensiero perché ad un tratto, senza dir parola, rapidamente e con violenza, mi colpì. Vacillai e riprendendo l'equilibrio indietreggiai di 1 passo o 2. «Questo è per la sfacciataggine con la quale parli alla mamma», disse, «e per come te la sei svignata andando a nasconderti dietro le tende, e per l'espressione dei tuoi occhi 2 minuti fa, talpa!» Abituata alle ingiurie di John Reed, non mi passava certo per la testa di rispondergli. Non pensavo ad altro che a scansare il colpo che certo avrebbe fatto seguito agli insulti. «Che facevi dietro le tende?» domandò. «Leggevo. Mostrami il libro». Ritornai alla finestra e ve lo presi. I nostri libri non sono per te. Tu sei una dipendente, dice la mamma. Non hai denaro. Tuo padre non te ne ha lasciato. Il tuo posto sarebbe per le strade a mendicare, non qui con i figli di signori come noi, a mangiare quel che mangiamo noi e a vestirti a spese di nostra madre. Ti insegnerò io ad andare a frugare nella mia biblioteca. Poiché i libri sono miei, tutta la casa è mia, o lo sarà tra pochi anni. Scostati e mettiti di fianco alla porta, lontano dallo specchio e dalle finestre. Ubbidì, senza rendermi conto a tutta prima delle sue intenzioni, ma quando lo vidi levare in alto il libro, soppesarlo e accingersi a scagliarlo, istintivamente balzai di lato con un grido di spavento. Ma non abbastanza presto, perché il volume volò per aria e mi colpì alla testa. Io caddi e, battendo contro lo stipite, mi ferii. La ferita sanguinava e il dolore era acuto. Ma il mio terrore aveva raggiunto l'apice e ora cedeva il passo ad altri sentimenti. Sei malvagio e crudele, gridai. Sei come un assassino, come un guardiano di schiavi, come un imperatore romano. Avevo letto la storia di Roma, di Goldsmith, e mi ero fatta le mie opinioni su Nerone, Caligola e gli altri, e ne avevo anche tratto dei paralleli che non avrei mai pensato di rivelare un giorno ad alta voce. Come, come? Esclamò egli. Lo dice a me? Eliza, Georgiana, l'avete sentita? Lo racconterò alla mamma. Ma prima. Mi si avventò contro, sentii che mi afferrava per i capelli e per le spalle, ma lottava contro un essere disperato. Io vedevo realmente in lui un tiranno, un assassino. Sentii qualche goccia di sangue scendermi dalla ferita lungo il collo e provai un'acuta sofferenza. Queste sensazioni dominarono per il momento la paura e lo aggredii a mia volta, cieca di furore. Non so bene che cosa feci con le mie mani, ma con un urlo di dolore gli mi chiamò: Vipera! Strega! Fu subito soccorso. Eliza e Georgiana erano corse a chiamare la signora Reed, che era salita al piano superiore, ed eccola entrare in scena, seguita da Bessie e da Abbott, la sua cameriera. Ci separarono e udii queste parole. Per carità, che orrore! Si è gettata sul signorino come una furia! Non si è mai vista tanta prepotenza! Allora intervenne la signora Reed. Conducetela via e chiudete la chiave nella camera rossa. Quattro mani si impadronirono subito di me e fui condotta di sopra. Capitolo 2. Mi divincolai lungo tutto il percorso. Prima d'allora non avevo mai opposto resistenza e questo fatto, nuovo per me, rafforzò grandemente la cattiva opinione che Bessie e la signorina Abbott ritenevano di dover avere sul mio conto. La realtà è che non mi dominavo più, o piuttosto che ero fuori di me, come direbbero i francesi. Mi rendevo conto che la ribellione di un momento già mi esponeva a castighi sconosciuti e, al pari di tutti gli schiavi ribelli, nella mia disperazione mi sentivo pronta a tutto. Le tengo le braccia, signorina Abbott, è come un gatto selvatico. Vergogna, vergogna, esclamò la cameriera della signora. Che condotta scandalosa, signorina Jane Eyre. Alzar le mani su un giovane signore, sul figlio della sua benefattrice, sul suo padrone. Padrone? Perché padrone? Sono forse una sua serva? No, meno di una serva, perché lei non fa nulla per guadagnarsi il pane che le danno. Là, si metta a sedere e mediti sulla sua cattiveria. Frattanto mi avevano fatta entrare nella stanza indicata dalla signora Reed e messa a sedere. Il mio primo impulso fu di balzar su come una molla, ma due paia di mani furono svelte a fermarmi. Se non rimane a sedere tranquilla, dovremo legarla, disse Bessie. Signorina Abbott, mi presti le sue giarrettiere, le mie le romperebbe subito. La signorina Abbott si voltò per togliersi dalle gambe robuste il legaccio che reggeva le calze. Quei preparativi e l'onta in essi implicita per me smorzarono un poco la mia eccitazione. Non se le tolga, gridai. Non mi muoverò. E a garanzia di quanto dicevo, mi afferrai con ambo le mani al sedile. Badi di non farlo, mi ammonì ancora Bessie, e quando si sentì sicura della mia sottomissione mi lasciò libera. Poi, a braccia conserte, le due donne rimasero a guardarmi, scure in viso e perplesse, come se dubitassero delle mie facoltà mentali. Non aveva mai fatto così, osservò infine Bessie rivolgendosi alla cameriera. Ma lo covava dentro di sé da sempre, fu la risposta. Ho confidato spesso alla signora la mia opinione su questa bambina e la signora la pensa come me. È una piccola ipocrita. Non ho mai visto una bambina della sua età fingere così bene. Bessie non rispose, ma poco dopo, volgendosi verso di me, disse: Dovrebbe ricordare, signorina, che lei ha degli obblighi verso la signora Reed. La signora Reed la mantiene. Il giorno che cambiasse avviso, a lei non rimarrebbe che l'asilo dei poveri. Non avevo nulla da rispondere a quelle parole, non mi erano nuove, anzi, ne ritrovavo l'eco fin nei primissimi ricordi della mia esistenza, e ormai le frasi che mi rinfacciavano la mia dipendenza mi risuonavano all'orecchio come una specie di confuso ritornello che mi faceva male e mi opprimeva, ma che non mi riusciva ancora del tutto chiaro. La signorina Abbott, aggiunse di rincalzo, non deve mettersi in mente di essere uguale alle signorine e al padroncino, anche se la signora Reed è tanto buona da allevarla insieme a loro. Loro un giorno saranno molto ricchi, mentre lei non avrà un soldo. Deve imparare ad essere umile e cercare di farsi voler bene da loro. Quello che le diciamo è per il suo bene, continuò Bessie, ma senza durezza. Cerchi di rendersi utile e simpatica, e allora forse lei potrà trovare una casa qui, ma se si dimostrerà sgarbata e prepotente, la signora la manderà via, ne sono certa. Inoltre, disse la signorina Abbott, Dio la punirà. Potrebbe farla morire proprio mentre dà sfogo alla sua cattiveria, e allora dove andrà? Venga, Bessie, lasciamola sola. Non vorrei avere un cuore come il suo per niente al mondo. Reciti le sue preghiere, signorina Eyre, quando sarà sola, perché se non si pente scenderà qualcuno dal camino a portarla via. Se ne andarono, chiudendo la porta alle loro spalle e girando la chiave nella toppa. La camera rossa era una stanza quadrata dove non dormiva mai nessuno, salvo che nelle rare occasioni in cui un'improvvisa affluenza di ospiti rendeva necessario aprire tutte le camere disponibili di Gateshead Hall. Ma per quanto solitamente disabitata, era una delle stanze più spaziose ed eleganti di tutta la casa. Al centro si ergeva al pari di un tabernacolo un letto a colonne di mogano massiccio, chiuso in un cortinaggio di damasco rosso cupo. Le due grandi finestre dagli scuri, sempre abbassati, erano seminascoste da festoni e drappeggi della stessa stoffa. Il tappeto era rosso e un drappo cremisi copriva il tavolo ai piedi del letto. Le pareti erano di un tenero color fulvo appena rosato e l'armadio, la specchiera, le sedie di vecchio mogano lucido e scuro. In mezzo a quelle forme, che s'addensavano all'intorno buie come ombre, spiccava bianco ed imponente l'alto letto carico di materassi e di cuscini nascosti da una nivea coperta marsigliese. Quasi altrettanto imponente era un'ampia poltrona imbottita che si profilava di fianco al capezzale, bianca anch'essa e con uno sgabellino ai piedi, in tutto simile, pensai, a un pallido trono. La stanza era fredda perché raramente vi si accendeva il fuoco, silenziosa perché lontana dalla stanza dei giochi e dalla cucina, solenne perché la si teneva raramente abitata. Soltanto una domestica vi entrava tutti i sabati per togliere dagli specchi e dai mobili la polvere silenziosamente accumulatasi in una settimana, e a intervalli più lunghi la signora Reed per esaminare un certo cassetto segreto dell'armadio, dove erano conservate alcune carte di famiglia, lo scrigno dei suoi gioielli e una miniatura del suo defunto marito. E in queste ultime parole è riposto il segreto della Camera Rossa, l'incantesimo che la serbava così disabitata e solitaria, nonostante la sua ricchezza. Il signor Reed era morto da 9 anni, aveva esalato proprio in quella stanza il suo ultimo respiro. Là aveva giaciuto nella sua pompa funebre, là avevano portato la sua bara, e da quel giorno una specie di lugubre consacrazione l'aveva preservata dai frequenti intrusioni. Il sedile sul quale Bessie e la signorina Abbott mi avevano lasciata era una bassa ottomana accanto al camino di marmo. Di fronte a me si ergeva il letto e alla mia destra il grande armadio oscuro, sul quale smorti e rotti riflessi variavano il lucido dei pannelli. Alla mia sinistra vi erano le finestre chiuse. Tra le due, una grande specchiera rifletteva la deserta maestà della camera e del letto. Non ero del tutto certa che avessero chiuso la porta a chiave e quando osai muovermi, mi alzai e andai a vedere. Ahimè, sì, nessuna prigione sarebbe stata più sicura. Per ritornare al mio posto dovetti passare davanti allo specchio. Affascinati, i miei occhi si fissarono involontariamente sulle profondità che rivelava. Tutto appariva più freddo e più cupo che nella realtà, riflesso in quella vacua superficie, e la strana figurina che mi fissava, chiazzando di bianco la penombra circostante, con le sue mani e la sua faccia pallida e i lucidi occhi spauriti che soli si muovevano in quello statico silenzio, mi facevano l'effetto di uno spirito. Assomigliava proprio a uno di quei minuscoli fantasmi, metà folletto e metà fata, che nelle favole narrateci da Bessie, all'ora d'andare a letto sbucavano di tra le felci dei valloncelli in prossimità delle paludi, presentandosi agli occhi dei viandanti notturni. Ritornai sul mio divano. La superstizione mi teneva compagnia in quel momento, ma non era ancora per essa l'ora della vittoria completa. Avevo il sangue ancora caldo e lo spirito della rivolta ardeva dentro di me in tutta la sua amarezza. Dovetti arginare un flusso veemente di ricordi e pensieri del passato, prima di piangere sul triste presente. tutte le brutali tirannie di John Reed, tutta l'altezzosa indifferenza delle sue sorelle, l'avversione di sua madre, la parzialità dei servi, tornarono a galla nella mia mente sconvolta come un nero sedimento in un pozzo intorbidato. Perché dovevo sempre soffrire? Perché dovevo sempre essere umiliata, accusata, condannata? Perché non riuscivo mai a piacere? Perché era vano pensare di conquistarsi la benevolenza altrui? Eliza, che aveva un carattere ostinato ed egoista, era rispettata. Georgiana, che era viziata, dispettosa e maligna, e aveva modi insolenti e capricciosi, era da tutti sempre perdonata. La sua bellezza, le sue guance rosee, i suoi riccioli biondi sembravano incantare chiunque la guardasse e acquistarle l'indulgenza universale per qualsiasi colpa o errore. Quanto a John, nessuno lo contrariava, né tantomeno lo puniva, sebbene torcesse il collo ai piccioni, uccidesse i pavoncelli, aizzasse i cani contro le pecore, saccheggiasse le viti di serra dei loro frutti, strappasse i germogli dalle piante più rare del vivaio. Chiamava sua madre vecchia zitella, spesso la scherniva per la sua carnagione scura, che egli del resto aveva ereditato, le sciupava di proposito le vesti di seta, non teneva conto alcuno dei suoi desideri e nonostante tutto ciò continuava ad essere il suo prediletto. Io non osavo commettere errori, mi sforzavo di adempiere a tutti i miei doveri e mi chiamavano cattiva, infingarda, intrattabile, falsa, dalla mattina alla sera e dalla sera alla mattina. La testa mi doleva per il colpo ricevuto e la ferita sanguinava. Nessuno aveva rimproverato John per avermi insensatamente colpita e fatta cadere, mentre io, che mi ero rivoltata contro di lui per difendermi da nuove violenze, ero fatta segno dell'obbrobrio generale. È un'ingiustizia, un'ingiustizia, diceva la mia ragione, resa precocemente matura dalla sofferenza, mentre una risolutezza, formatasi parimenti all'improvviso, mi suggeriva espedienti disperati per sfuggire all'insopportabile oppressione. Scappare, per esempio, o se non ci fossi riuscita, non mangiare e non bere più per lasciarmi morire. Quale costernazione regnava nell'animo mio in quell'orribile pomeriggio? Avevo il cervello in tumulto e la rivolta nel cuore. Ma in quale oscurità, in quale densa ignoranza veniva combattuta la mia battaglia mentale? Non sapevo rispondere alla domanda che senza posa mi ponevo. Perché dovevo soffrire così? Ora, a distanza di non voglio dire quanti anni, lo capisco chiaramente. Ero fuori posto a Gateshead Hall. Vi abitavo, ma era come se non vi esistessi. Non avevo nulla in comune con la signora Reed, né con i suoi figli, né con il suo scelto servidorame. E se loro non mi amavano, tantomeno io amavo loro. Essi non erano tenuti a considerare con affetto un essere incapace di simpatizzare con nessuno di loro, un essere eterogeneo, opposto a loro nel temperamento, nelle tendenze, nelle capacità, un essere inutile perché né serviva ai loro interessi, né costituiva alcunché di piacevole per loro, un essere dannoso che nutriva in seno i germi dell'indignazione per il loro trattamento e che disprezzava il loro giudizio. So che se fossi stata una bambina vivace, sventata, noncurante, esigente e bella, anche se ugualmente diseredata e da loro dipendente, la signora Reed avrebbe sopportato con maggior buona grazia la mia presenza. I suoi figli avrebbero nutrito per me la simpatia che ispira l'affinità del temperamento, unita a quella dell'età, e i servi sarebbero stati meno inclini a fare di me il loro capro espiatorio. La luce del giorno cominciava ad abbandonare la camera rossa. Erano le 4 passate e il grigio pomeriggio si approssimava al crepuscolo. Sentivo la pioggia battere di continuo sui vetri della scala e il vento sibilare tra gli alberi del boschetto dietro la casa. A poco mi sentii diventare fredda come una pietra e il coraggio mi abbandonò. Quel senso di umiliazione, di incertezza, di solitudine e di scoramento che formava il mio abituale stato cadde come un cencio bagnato sulle braccia della mia ira, ormai già semispenta. Tutti dicevano che ero cattiva e forse lo ero. L'idea che avevo avuto poc'anzi di lasciarmi morire di inedia era certo di per se stessa un delitto. E poi ero proprio disposta a morire. E la volta sepolcrale sotto l'abside della chiesa di Gateshead era davvero una meta invitante. Là, mi avevano detto, era sepolto il signor Reed. Ciò mi richiamò alla mente lo scomparso, ispirandomi riflessioni sempre più paurose. Non potevo ricordarlo, ma sapevo che era mio zio, il fratello di mia madre, che mi aveva accolta in casa sua quando in età ancora tenerissima ero rimasta senza genitori, e che nei suoi ultimi istanti aveva chiesto alla signora Reed la promessa di allevarmi e mantenermi come uno dei suoi figli. Probabilmente la signora Reed riteneva di avere mantenuto la promessa, e ora posso dire che, nella misura concessale dal suo temperamento, l'aveva infatti mantenuta. Ma come poteva affezionarsi veramente ad un'intrusa che dopo la morte del marito non era più unita a lei da alcun legame? Doveva riuscirle estremamente sgradevole e faticoso sentirsi costretta da una promessa strappatale a forza a far da madre a una bambina che non poteva amare e a sopportare la presenza in seno alla propria famiglia di una creatura che non aveva con lei alcuna affinità. Ad un tratto una strana idea baluginò nella mia mente. Non dubitavo, non avevo mai dubitato, che se il signor Reed fosse rimasto in vita mi avrebbe trattata amorevolmente. Ed ora, mentre seduta sul divano, fissavo il letto bianco e le pareti buie, volgendomi anche di quando in quando a guardare con occhi affascinati lo specchio, fiocamente luccicante, a poco ricordai le storie superstiziose, tante volte udite raccontare sui morti, che turbati nel riposo della tomba dalla violazione delle loro ultime volontà, ritornano sulla terra a punire gli spergiuri e a vendicare gli oppressi. Pensavo che lo spirito del signor Reed, tormentato dai torti inflitti alla figlia di sua sorella, poteva anche lasciare la sua dimora, fosse essa nel sepolcro sotto l'abside o nello sconosciuto mondo dei defunti, ed apparirmi davanti in quella stanza. Asciugai le lacrime e soffocai i singhiozzi nel timore che la manifestazione di un dolore cocente potesse risvegliare una voce sovrannaturale pronta a confortarmi o far sorgere dalla penombra un viso dai contorni incerti che si sarebbe chinato su di me con tacita pietà. Questa idea, consolante in teoria, sarebbe stata terribile nella realtà. Lo sentivo e con tutte le mie forze tentai di scacciarla e di farmi coraggio. Scuotendo indietro i capelli che mi cadevano sugli occhi, rialzai il viso e gettai uno sguardo risoluto intorno a me nella stanza buia. In quel momento una luce scintillò sulla parete. Che fosse, mi chiesi, un raggio di luna filtrato attraverso gli scuri? No, la luce della luna è immobile e quella si muoveva. Mentre la fissavo, la luce si allungò sino al soffitto e tremolò sopra il mio capo. Posso ora facilmente supporre che quella striscia luminosa fosse il riverbero di una lanterna portata da qualcuno che attraversava il prato, ma allora. Allora, predisposta com'era la mia mente a eventi paurosi, scossi com'erano i miei nervi dall'agitazione, credetti che quel raggio saettante annunciasse l'approssimarsi di una visione ultraterrena. Il cuore mi batteva all'impazzata e la testa mi ardeva. O un suono mi riempì le orecchie, sembrava un fruscio di ali. Credetti di avvertire una presenza accanto a me. Ero oppressa, mi sentivo soffocare. Non resistetti più, corsi alla porta e mi aggrappai alla maniglia, scuotendola disperatamente. Dei passi si avvicinarono correndo lungo il corridoio, la chiave girò nella toppa e Bessie ed Abbott entrarono. Signorina Eyre si sente male? Domandò Bessie. Che modo di gridare! Mi son proprio spaventata! Esclamò Abbott. Portatemi fuori di qui! Lasciatemi ritornare nella mia stanza! Gridai. E perché si è fatta male? Ha visto qualche cosa? Domandò di nuovo Bessie. Ho visto una luce e ho creduto che ci fosse uno spirito! Avevo afferrato la mano di Bessie ed ella non tentò di liberarla. Ha gridato apposta, dichiarò Abbott indignata. E che strillo! Se si fosse sentita male si potrebbe anche scusarla, ma voleva soltanto farci correre fin qui. Conosco i suoi trucchi. Che cosa accade? Chiese una voce imperiosa, e la signora Reed apparve in fondo al corridoio, con la cuffia per aria e la gonna svolazzante per la corsa. Abbott, Bessie, non avevo dato ordine che Jane Eyre rimanesse chiusa nella camera rossa fino a quando non fossi venuta io stessa da lei? La signorina ha strillato così forte, cercò di scusarsi Bessie. Scostatevi, fu la sola risposta. E tu, bambina, lascia andare Bessie, non riuscirai a uscire di qui con simili espedienti, stanne certa. Detesto l'ipocrisia, specie nei bambini, ed è mio dovere dimostrarti che con gli imbrogli non si ottiene nulla. Adesso rimarrai qui un'ora di più e ti farò uscire solamente se ti impegni a ubbidire e a non fare altre scenate. Oh zia, abbia pietà, mi perdoni, non resisto a rimanere ancora qua dentro, mi dia un altro castigo, morirò se basta! Questa esaltazione mi ripugna! E senza dubbio era sincera, ai suoi occhi io non ero che una precoce commediante, un miscuglio di passioni violente, di bassezza d'animo, di falsità. Quando Bessie ed Abbott ci ebbero lasciate, la signora Reed, esasperata dai miei singhiozzi disperati e dall'affanno che mi aveva colta, mi spinse indietro brutalmente e chiuse la porta a chiave, senza più dir parola. La udii allontanarsi a passi frettolosi e quando il fruscio delle sue gonne svanì in fondo al corridoio, suppongo d'essere caduta a terra priva di sensi, perché non ho coscienza di ciò che avvenne dopo.